Questa settimana ci sono stati due eventi giganteschi, per motivi diversi, relativi al riconoscimento facciale e al razzismo. Una è la storia del primo caso noto negli Stati Uniti di arresto di una persona nera per un errore dell'algoritmo. Il secondo invece è un caso più piccolo, ma importante allo stesso modo, perché ha fatto cadere un paio di castelle di carta e anche alcuni grossi colossi del settore. Tutto per colpa di un algoritmo che da una faccia pixelata cerca di generare un'immagine normale. Negli Stati Uniti, Robert Julian Borchak Williams, un cittadino afroamericano, è stato arrestato dalla polizia di Detroit perché l'algoritmo del sistema di riconoscimento facciale aveva trovato un match tra un frame delle riprese delle videocamere a circuito chiuso relativo a una rapina e una foto di riconoscimento dello stesso Robert. Robert è stato arrestato di fronte a sua moglie e sua figlia, detenuto per 30 ore e poi rilasciato. Durante l'interrogatorio gli hanno mostrato il frame che l'avrebbe dovuto incriminare e lui, ricostruisce un articolo che ha scritto per il Washington Post, afferma che dopo aver avvicinato quel frame che gli hanno passato i poliziotti al proprio volto, ha chiesto agli agenti: ma questo mi sembro io? Pensate veramente che i neri siano tutti identici? I poliziotti, per tutta risposta, hanno detto nemmeno troppo a bassa voce tra di loro: il computer deve essersi sbagliato. E quindi ecco, grazie a questa svista, a questo commento che è uscito dalle bocche dei poliziotti, Robert ha capito che c'era qualcosa che non andava e quindi, affidandosi alla ACLU, questa associazione di avvocati ed esperti di diritti, non solo digitali, che si occupano di queste cause, di queste vicende, si è rivolto a loro appunto e questi hanno fatto una causa, quindi c'è una causa in corso. La polizia nel frattempo si è scusata, ha promesso di rimuovere ogni traccia della detenzione e delle accuse nei confronti del cittadino. Ma questo ovviamente è il primo caso noto. Quanti ce ne saranno di casi nascosti di cui non sappiamo nulla e dove il face recognition è stato utilizzato e ha fallito? E ovviamente questo è l'ennesimo caso che mostra come questi sistemi non siano affidabili. Presumibilmente il software qui era stato addestrato su dati che fanno riferimento a volti di persone bianche e quindi avendo solamente persone della carnagione bianca a disposizione, l'algoritmo non riesce a distinguere bene volti che presentano un colore della pelle diverso. Ma ovviamente questo è un problema già noto e di cui avevo anche accennato in podcast precedenti. La seconda storia però mostra che giustificarsi dicendo che è colpa dei dati e quindi la prossima volta faremo meglio non basta più. Su Twitter uno sviluppatore ha pubblicato questo algoritmo chiamato Face the Pixeler. Sostanzialmente tu gli offri una foto pixelata e l'algoritmo ne produce una nuova a partire da quella lì fornita. Però attenzione, non sta ricostruendo il volto originario nascosto sotto quei pixel, ne crea uno nuovo, uno che potrebbe essere simile a quella foto pixelata. Cos'è successo? Gli hanno fornito la foto di Barack Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti, che ricordo è noto per il massiccio impiego di droni per uccidere illegalmente persone in territori lontani e distanti, ma comunque dicevo, questo algoritmo, partendo dall'immagine di Barack Obama, creava un'immagine di una persona al volto bianco. Altri ricercatori hanno riprodotto lo stesso problema con immagini di altre persone della carnagione nera, tra cui anche c'erano diverse foto che erano circolate, anche quelle di Alexandria Ocasio-Cortez, e lo stesso risultato era sempre quello. Da un'immagine di partenza di una persona non bianca veniva prodotta comunque l'immagine di una persona bianca. Da qui è partita una discussione accesissima su Twitter, dove Yann LeCun, che è uno dei più famosi ricercatori del settore dell'intelligenza artificiale, nonché Chief Artificial Intelligence Scientist at Facebook, ha fatto sostanzialmente spallucce in un tweet dicendo: ma sì, è sempre tutto un problema di bias nei dati. Nelle applicazioni reali i danni derivano sempre da questo, quindi il bias, il problema, è nei dati. A nulla però è servito il dibattito acceso che è partito sotto a questo tweet, dove ricercatrici del settore appartenenti alle minoranze più colpite da questo tipo di discriminazioni hanno cercato di farlo ragionare. Il problema infatti è di razzismo sistemico, che è imbevuto nella struttura stessa e nella mente di chi pensa di produrre quegli algoritmi di intelligenza artificiale. Lui faceva anche una distinzione tra ingegneri e ricercatori, ma anche quella non sta in piedi. Alcuni sistemi di machine learning, di artificial intelligence, hanno comunque il bias. A prescindere dai dati, hanno dei pregiudizi proprio nel modo in cui è stato allestito il sistema di formule, codici, algoritmi che costituiscono l'ossatura dell'algoritmo. Non è solamente una questione di dati. Se noi pensiamo agli algoritmi di intelligenza artificiale come dei veri e propri organismi digitali, e quindi da un lato abbiamo i dati che utilizzano per essere addestrati, che sono un po' l'equivalente di quello che mangerebbero questi algoritmi. Mangiano dei dati per crescere ed evolvere. Però ovviamente se il problema è infrastrutturale, quindi la struttura dell'organismo stesso è sbagliata, ci sono dei problemi. Ovvero, se la bocca è al posto del culo, quello che sputa fuori sarà comunque merda. Inoltre, come sottolineavano anche altri ricercatori sotto il tweet di Ian, pretendere di avere un dataset libero da bias è impossibile nel mondo reale. Noi esseri umani produciamo quei dati e quindi quei stessi dati, come noi stessi, sono imbevuti di pregiudizi, razzismo e altre forme di discriminazione che si sono via via sedimentate da secoli nella nostra società. Lincoln quindi si è dimostrato sconnesso dal dibattito mondiale sui rischi dell'intelligenza artificiale e questa cosa non mi sorprende, ma tant'è. Però a rendere tutto ancora più ridicolo è il fatto che negli stessi giorni altri ricercatori annunciavano un sistema per riconoscere i criminali dall'immagine del proprio volto. E questa è proprio frenologia a livello zero, è quasi l'ennesimo ciclico tentativo di riportare in vita le tesi lombrosiane.